Thank you. Cohen non è un musicista, è lo stalliere di Ryan. Lo sterco della politica corrotta di Ryan impesta la città e Cohen volteggia in giro a raccattarlo. Ma invece di usare una pala, come si addice a un vero mulo, Cohen sforna motivetti facili e acuti giri di parole. Per quanto risulti gradevole, però, non riesce a far nulla per eliminare il fetore. Una tipetta ha cercato di rifilarmi quei vecchi sigari Oxford Club. No, grazie, le ho detto. Sono un uomo da nicotine e lo sarò sempre. Perché? Fumano bene e costano uno scherzo. Chi se ne frega se sono fatti con conchiglie e uova di pesce? Un altro bidone. Il secondo della settimana. Da quando la mia faccia è stata... Steinman ha lavorato su di me. Ma non ero più la stessa dopo l'esplosione. Stare così tanto sola da una ragazza è tempo di pensare. Chi poteva odiarmi così tanto da rovinarmi in quel modo? Che cosa gli avevo fatto? Continuo a pensare a tutti quei banditi e terroristi che Ryan ha fatto rinchiudere ad Apollo Square e mi viene una tale rabbia. A volte fatico a respirare. Se solo potessi confrontarmi con loro, dirgli che cosa mi hanno fatto. Come stanno rovinando tutto di me, di Rapture. Forse mi sentirei meglio. Avrei potuto essere l'astro di Broadway, la favola di Hollywood. Invece ti ho seguito in questo pozzo umido. Quando ti serviva la luce della mia stella, ti ho illuminato. Ma ora sono qui a marcire, ad aspettare un pubblico che non arriva mai. Sto scrivendo qualcosa per te, Andrew Ryan. Un requiem. Rapture sta andando in malora. E perché? Per colpa loro. Sempre dietro le quinte, all'Accademia, alle gallerie di Soho, persino qua giù, in questa cosiddetta utopia. Gli scettici. Ma Ryan capisce. Ci stiamo simpatici. Sì, c'è sangue per le strade. Sì, a volte la gente sparisce. E quelle disgustose ragazzine. Beh, forse gli scettici pensano che si possa dipingere un quadro senza sporcarsi il camice. A proposito della sua critica all'ultimo insulto musicale di Anna Culpepper, non capisco sinceramente perché, con tutti gli artisti di talento presenti a Rapture, lei continui a dedicare intere colonne a quella nullità musicale. Quando non scopiazza è noiosa, quando non è noiosa è banale, quando non è banale è pericolosa. Il coniglio selvatico di Sander Cohen. Voglio strapparmi le orecchie, ma non posso. Salto, e quando salto non mi stacco dal terreno. È una maledizione eterna. Non riesco a strapparmi le orecchie. È una maledizione, una cazzo di maledizione! Voglio strapparmi le orecchie! Vi prego, aiutatemi, vi prego! Quella viscida dottoressa Tenenbaum mi ha promesso che non sarebbe stata una vera gravidanza. Mi avrebbero solo prelevato l'ovulo una volta che io e Mr. Ryan avessimo... Avevo bisogno di soldi. Ma Mr. Ryan indagherà. Saprà che non sono stata attenta. Saprà che ho venduto... Mr. Ryan si arrabbierà molto con me. Ho appena ricevuto l'ordine di far fuori Anna Culpepper. Non si tratta di un gangster o di un pericoloso attivista politico. È solo una povera stordita, autrice di un paio di canzoni che hanno infastidito Ryan. Mi occupavo dei pestaggi a Little Italy. Ma perfino io sono sconvolto dal sangue freddo di quei tipi artistici. Tra quella Culpepper e quel finocchio di Cohen c'è una specie di ostilità. Stanno cercando di costringere i miei uomini della sicurezza a decidere da che parte stare. So già che verrò convocato nell'ufficio di Ryan a parlare di questo casino. Maledetti artistoidi. Credi di farmi morire qua dentro, vecchia checca? Tutti gli altri poveracci che hai sbattuto in questa ghiacciaia erano atterriti come conigli. Io mi limitavo a guardare e ad aspettare. E quando hanno iniziato a scalciare, ho iniziato a depredare. Mi sono fatto un piccolo cocktail ricombinante. Se non resisti al gelo, devi farti crescere il ghiaccio sul cuore. E l'uomo di ghiaccio arriva, caro il mio Sender. Cazzo se arriva! Sai una cosa? L'arte, la musica, la poesia, è tutta una frode. Cohen tiene Ryan legato al mignolo, e perché? Perché gli dice quello che vuole sentire. Sorgi, rapture, sorgi, cazzate! Quella roba era stantia prima ancora di uscire dalla penna di Cohen. Io ho chiuso con questa storia, voglio vedere come fa a tenermi qui quella vecchia checca. La mia collezione è quasi completa. E poi vedremo chi è il vero artista qua giù. Vuoi chiuderci dentro, vecchio? Oh, a Cobb si sta bene. Un tempo mi piacevi. Pensavo che tu fossi un genio musicale, sai perché? Perché mi pagavi l'affitto, vecchio maiale. Vieni al negozio di dischi. Ti faccio vedere cosa ne penso del tuo plink plink plink. Che ti è successo? È un secolo che cerco di contattarti. Ah, lascia stare. Torna alla Battisfera e scendi a Efestus, per cortesia. È ora di chiudere i conti con Ryan. Ryan ha passato le chiavi di Fort Frolic a un tizio di nome Sander Cohen. Cohen è un artista, dicono alcuni. È uno psicotico, dico io. Ne ho visti di tagliagole, mostri, casi difficili, vita mia. Ma Cohen è un vero malato di mente, un pericoloso psicopatico. Ci sei quasi. La sfera per Ryan è poco più avanti. Nessuno è ammesso dietro le quinte prima dello spettacolo, piccola falena. Tensione, tensione, tensione, tensione. Scendi, piccola falena. La vita, la morte. Il fardello dell'artista è saper cogliere l'attimo. Ed ecco Fitzpatrick colto nel suo momento di gloria. Pare che tu abbia l'occhio del fotografo, piccola falena. Adesso vai nell'atrio e incornicia la sua foto nel mio capolavoro. L'inizio della nostra collaborazione. I'm Sander fucking Cohen! Smile! Smile! Oh, questo qui profuma di aceto di malto. Ho atteso così a lungo che arrivasse qualcosa di appetitoso in questo piccolo borgo, ma tutti quelli che passano sono bifolchi esotici. Oh, ma che maleducato! Prego, accomodati! Sander Cohen ti attende nella Fleet Hall. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da da da da da da da. Una volta si riusciva a sentire qualcosa di decente alla radio. L'artista ha il dovere di sedurre l'orecchio e deliziare lo spirito. Quindi, di addio a quei due fanfaroni e salve a una serata con Sander Cohen. I critici tenteranno di crocifiggerti. It is... accomplished! Era una persona spregevole. È il mio preferito. Ma credo che mi piaccia di più così. Scattagli una foto, forza. Era uno zoticone, ma robusto. Scatta la foto prima che si asciughi completamente. Piccola falena, Ora le porte di Poseidon Plaza sono aperte. Lascia che apra il sipario. Sta prendendo forma, sì! Ma ci saranno sempre degli scettici. Tu non dubiti di me, vero? Non ho mai sopportato gli scettici. So perché sei venuto, piccola falena. Hai la tua tela che intendi dipingere col sangue di un uomo che un tempo amavo. Sì, ti manderò da Ryan. Ma prima devi far parte del mio capolavoro. Vai nell'atrio. Sbrigati. La mia musa è una stronza volubile, con un tempo di attenzione molto breve. Sì, e quello è Fitzpatrick, libero da capricci e difetti. Ed ecco la gloriosa notizia. Questo è proprio il momento del concepimento. In questo posto ci sono 3 uomini, tutti i miei ex discepoli, tutti legati a un filo comune, il tradimento. Trovali, piccola falena. È immortale la loro mortalità nel mio quadrittico. Va. Una volta che avranno conquistato la loro ricompensa, tu andrai a prendere la tua, e Ryan. Complimenti. Dove hai studiato? Torna! Ti prego, torna! Per esempio... Scodinzola! Scodinzola! Finnegan lo trovi nel deposito refrigerato. L'ho scoperto a Marsiglia nel 1937. Ammirava la mia pittura. Io ammiravo la sua carrozzeria. Fu il primo dei miei discepoli a mordermi la mano. Uccidilo nel modo che più ti va, genio, anche se preferirei qualcosa di... bruciante. Dunque, sono mesi che non vedo un vero segno di vita qua sotto. Vediamo se sei solo un altro ritardatario o magari qualcosa di più delizioso. Che sorprendente dimostrazione atletica. Non occorre che mi ringrazi per aver disturbato le trasmissioni di quei due cialtroni di Atlas e Ryan. Lasciamoli bisticciare tra loro. L'artista, sì, l'artista sa che c'è un terreno più ricco da coltivare. L'artista nuota in un lago di dolore. Talvolta si evolve in qualcosa di magnifico. Talvolta annega. No, no! No, no, no! Presto, presto! No, no! Allegro, allegro! Sono il fottutissimo Sander Cohen! Di nuovo, giovane Fitzpatrick. Oh, più veloce di quanto sperassi. Oh, that was quicker than I hoped. Come si può pensare che voglia incontrare il pubblico adesso, mentre mi sto preparando? Inconcepibile! Sono il fottutissimo Sander Cohen! Prepare the plaster cast. He'll make a fine addition to the collection. Go on! Run! Fly away, little moth! Fly! Silenzio! Sorridi! Sorridi! Mi dispiace per lo sfogo. Devi perdonare il temperamento artistico di un vecchio matto. La nascita è imminente. Le doglie del parto possono offuscare il giudizio e sconvolgere le passioni perfino degli spiriti più eletti. Presto! Scattagli la foto mentre lo spettro è ancora ben visibile. Guarda il giovane Fitzpatrick qui sul palco. Usa la macchina fotografica. Immortalalo così, in modo da poterlo ricordare. Che cosa aspetti? Fitzpatrick non può mantenere quella pose in eterno! È stato sublime. Fagli una fotografia e mettila nel quadrittico. Mi sento pregno, come una donna incinta. Resta seduto. Ti aggiri fluttuando per il forte, cogliendo vite lungo il cammino. Non sei una falena, sei un angelo. Non ho mai dipinto un angelo. Forse dovrei. Ah, così va meglio. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da da da da da da da. Una volta si riusciva a sentire qualcosa di decente alla radio. L'artista ha il dovere di sedurre l'orecchio e deliziare lo spirito. Quindi, di addio a quei due fanfaroni e salve a una serata con Sander Cohen. Per esempio, ti metto alla prova, piccola falena, ma c'è un motivo. Metto alla prova tutti i miei discepoli. Alcuni splendono come galassie e altri bruciano come falene tra le fiamme. Ora entra nella mia casa. 3 su 4. Cos'è quella faccia? Non ti piace, vero? Non ho bisogno di essere giudicato da te, da nessuno! Vaffanculo! Andate a fanculo, scettici del cazzo! Ecco che cosa vi dico! Sì, ora metti la fotografia nella cornice. Vediamo cosa abbiamo qui. Lo vedi? Quando tornerò polvere, sarà questo ciò che ammireranno. Il mio quadrittico. Il mio capolavoro. Avanti. Non aver paura. Toccalo. Benvenuto a Fort Frolic. It is a sin to leave her. She is a little girl. You must cremate the body. It is only what is right. For this deed, I can reward you. There is a place called Robertson's Tobacco Shop. Use the code 8729. Take what you will. Scendi, piccola falena. La vita, la morte. Il fardello dell'artista è saper cogliere l'attimo. Oh, questo qui profuma di aceto di malto. Ho atteso così a lungo che arrivasse qualcosa di appetitoso in questo piccolo borgo, ma tutti quelli che passano sono bifolchi esotici. Oh, ma che maleducato! Prego, accomodati! Sander Cohen ti attende nella Fleet Hall. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da da da da da da da. Una volta si riusciva a sentire qualcosa di decente alla radio. L'artista ha il dovere di sedurre l'orecchio e deliziare lo spirito. Quindi, di addio a quei due fanfaroni e salve a una serata con Sander Cohen. The critics will try to crucify you. L'opera è compiuta! Sta prendendo forma, sì! Ma ci saranno sempre degli scettici. Tu non dubiti di me, vero? Non ho mai sopportato gli scettici. So perché sei venuto, piccola falena. Hai la tua tela che intendi dipingere col sangue di un uomo che un tempo amavo. Sì. Ti manderò da Ryan,

Vaffanculo! Andate a fanculo, scettici del cazzo! Ecco che cosa vi dico! Sì, ora metti la fotografia nella cornice. Vediamo cosa abbiamo qui. Lo vedi? Quando tornerò polvere, sarà questo ciò che ammireranno. Il mio quadrittico. Il mio capolavoro. Avanti, non aver paura. Toccalo. Benvenuto a Fort Frolic. Watch yourself, you clumsy sow! That's my work! Il vandalismo è un reato grave. I vandali sono parassiti. Mi dispiace, Mr. Ryan. Io non sapevo che c'entrasse Fontaine in questa storia. La prego! No, non lo faccia! La prego, no! No! No! Pensavo ti fossi dimenticato della povera Jasmine. Sono felice che non sia così. Ma guarda, Andrew Ryan, chi non muore si rivede. Vieni qui, tigre. Mr. Cohen! No! No! Mr. Cohen, la prego. Ci sto provando. Per favore! Cohen, brutto depravato! Fammi uscire da qui! Oh, Jesus! Oh, God! Guarda bene, amico. Questo è il tuo futuro. Ho una posa perfetta per te. Finalmente il vecchiaccio si è deciso a mandare qualcuno. Quel figlio di puttana mi ha lasciato a gelare. Vedo il tuo respiro. Che cosa non mi ha fatto fare quell'uomo? Si fotta! Cazzo, possibile che non ci sia nessuno a servire? Magari dovrei, cioè, fare qualcosa? Chi si crede di essere? La mia collezione è quasi completa. E poi vedremo chi è il vero artista qua giù. È tutto un gioco, messaggero. Cohen, Ryan, due vecchi che si tirano l'uccello a vicenda. Sei il messaggero di Cohen? Ho qualcosa per quel corvo. Di al vecchio corvo che la sua musica brucia meglio di come suona. Se il finocchio vuole farmi uccidere, perché non ha mandato qualcuno con le palle? Le mie gattine! Hai assassinato le mie gattine! Passa un po' di tempo con i miei tesorini, zuccherino.